Cari fratelli e sorelle, la lettera agli Efesini ci presenta la Chiesa come una costruzione edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Nell'Apocalisse il ruolo degli apostoli e più specificamente dei dodici è chiarito nella prospettiva escatologica della Gerusalemme celeste, presentata come una città le cui mura poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. I Vangeli concordano nel riferire che la chiamata degli apostoli segnò i primi passi del ministero di Gesù dopo il battesimo ricevuto dal Battista nelle acque del Giordano. Stando al racconto di Marco e di Matteo, lo scenario della chiamata dei primi apostoli è il lago di Galilea. Gesù ha da poco cominciato la predicazione del regno di Dio quando il suo sguardo si posa su due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Sono pescatori impegnati nel loro lavoro quotidiano. Gettano le reti, le riassettano, ma un'altra pesca li attende. Gesù li chiama con decisione ed essi con prontezza lo seguono. Ormai saranno pescatori di uomini. Luca, pur seguendo la medesima tradizione, ha un racconto più elaborato. Esso mostra il cammino di fede dei primi discepoli, precisando che l'invito alla sequela giunge loro dopo aver ascoltato la prima predicazione di Gesù, sperimentato i primi segni prodigiosi da lui compiuti. In particolare, la pesca miracolosa costituisce il contesto immediato e offre il simbolo della missione di pescatori di uomini ad essi affidata. Il destino di questi chiamati, d'ora in poi, sarà intimamente legato a quello di Gesù. L'Apostolo è un inviato, ma prima ancora un esperto di Gesù. Proprio questo aspetto è messo in evidenza dall'Evangelista Giovanni, fin dal primo incontro di Gesù con i futuri apostoli. Qui, nel Vangelo di San Giovanni, lo scenario è diverso. L'incontro si svolge sulle rive del Giordano. La presenza dei futuri discepoli, venuti anch'essi come Gesù dalla Galilea per vivere l'esperienza del battesimo amministrato da Giovanni, questa presenza fa luce sul loro mondo spirituale. Erano uomini in attesa del regno di Dio, uomini desiderosi di conoscere il Messia, la cui venuta era annunciata come imminente. Basta ad essi l'indicazione di Giovanni Battista, che ha dita in Gesù l'agnello di Dio, perché sorga in loro il desiderio di un incontro personale con questo Maestro. Le battute del dialogo di Gesù con i primi due futuri apostoli sono molto espressive. Alla domanda «Che cercate?» essi rispondono con un'altra domanda: Rabbi, che significa maestro, dove abiti? La risposta di Gesù è un invito: venite e vedrete. Venire per poter vedere. L'avventura degli apostoli comincia così, come un incontro di persone che si aprono reciprocamente. Comincia così per i discepoli una conoscenza diretta del Maestro. Vedono dove abita e cominciano a conoscerlo. Essi, infatti, non dovranno essere annunciatori di un'idea, ma testimoni di una persona. Prima di essere mandati ad evangelizzare, dovranno, come dice San Marco, stare con Gesù, stabilendo con Lui un rapporto personale. Su questa base, l'evangelizzazione altro non sarà che un annuncio di ciò che si è sperimentato e un invito ad entrare nel mistero della comunione con Gesù, avvicinarsi per vedere dove abita, per conoscerlo, per vederlo e per così capire che è il Messia. A chi saranno inviati gli apostoli? Nel Vangelo Gesù sembra restringere al solo Israele la sua missione. Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. In maniera analoga, egli sembra nella prima missione circoscrivere la missione affidata ai dodici. Questi dodici, dice San Matteo, Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Una certa critica moderna di ispirazione razionalistica aveva visto in questa espressione la mancanza di una coscienza universalistica di Cristo. In realtà, questi racconti vanno compresi alla luce del rapporto speciale di Gesù con Israele nella continuità della storia della salvezza, comunità dell'Alleanza. Secondo l'attesa messianica, le promesse divine immediatamente sono indirizzate a Israele e sarebbero quindi giunte a compimento quando Dio stesso attraverso il suo eletto avrebbe raccolto il suo popolo come fa un pastore con il suo gregge. Dice il profeta Ezechiele: io, cioè Dio parla, io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide, mio servo. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e Davide, mio servo, sarà principe in mezzo a loro. Gesù è questo pastore escatologico che raduna le pecore perdute della casa di Israele e va in cerca di esse perché le conosce e le ama. Attraverso questa raccolta, il regno di Dio si annuncia poi a tutte le genti, dice Ezechiele nello stesso discorso di Dio: fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi. E ci segue proprio questo filo profetico, primo passo, la raccolta di Israele, perché così possano vedere finalmente tutte le genti e radunate nella comunione col Signore, tutte le genti. Così i dodici, assunti a partecipare alla stessa missione di Gesù, cooperano col pastore degli ultimi tempi, andando anzitutto anche loro dalle pecore perdute della casa di Israele, rivolgendosi cioè al popolo della promessa, il cui raduno è il segno di salvezza per tutti i popoli, inizio della grande universalizzazione dell'alleanza. Lungi quindi dal contraddire l'apertura universalistica dell'azione messianica del Nazareno, l'iniziale restringimento ad Israele della missione sua e dei dodici ne diventa così il segno profetico più efficace. Dopo la passione e la risurrezione di Cristo, tale segno sarà chiarito. Il carattere universale della missione degli apostoli diventerà esplicito. Cristo invierà gli apostoli in tutto il mondo, a tutte le nazioni, fino agli estremi confini della terra, e questa missione continua, sempre è mandato del Signore di riunire i popoli nell'unità del suo amore e della sua fede. Questa è la nostra speranza e questo è anche il nostro mandato, di contribuire a questa universalità, a questa vera unità nella ricchezza delle culture, in comunione col nostro vero Signore Gesù Cristo.